perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Me ne hai dette di tutti i colori ieri, che ero maliziosa, che pensavo che il governo avrebbe tanto prorogato tutti i bonus e gli incentivi fiscali per ristrutturare la casa. Non solo l'ha fatto, ci ha pure messo quelli per rinnovare il giardino e i balconi, lo vedi? Guarda, sospiro. A pensare male si fa sempre bene. Sospiro come un coniuge anziano, però proprio per questa confidenza che mi prendo, cara Deborah, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori, sì. Benvenuti a Due di Denari. Allora ti voglio dire, è vero, si annuncia nel disegno di legge di bilancio che ieri il Consiglio dei Ministri ha varato 20 miliardi abbondanti di soldini che gireranno, sì, in qualche maniera. Si annuncia, dicevo, la proroga per i bonus edilizi e anche un nuovo bonus per i giardinieri. Ma noi ne siamo contenti adesso, a parte le mie battute, per carità del cielo. Ci mancherebbe altro, solo tu eri un po' maliziosa. Ecco, però ti voglio dire questo proprio tra anziani coniugi. Anziano lo dirai a... il tuo computer lì davanti. E lo dicevo proprio con malignità. Allora, ti volevo dire questo. Questo è il progetto del governo. Quindi non è al momento vigente. Quello che invece è vigente, e oggi mi hai visto proprio che sono venuto qua e leggevo avidamente dalla Gazzetta Ufficiale. Ti luccicavano gli occhi, guarda. Sì, è il decreto legge fiscale. Il decreto legge fiscale è il primo tassello della manovra ed è in vigore da ieri. Si chiama decreto legge 148, datato 16 ottobre. Bravo. Perché lo voglio dire? Perché, signori, qui dentro c'è, ed è già operativo, tutta la modifica che riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali. Ma ci facciamo una bella puntata dei Due di Denari domani, cosa ne dici? Ma guarda, mi inviti a nozze, tu proprio dai. Vuoi la mia felicità, lo facciamo senz'altro. Qui ci sono dentro anche altre cose, ma non quelle, ti dico, del disegno di legge di bilancio. Molto lo spiegheremo bene. Nel dettaglio domani. Allora, per quello che riguarda invece la giornata di oggi, cosa bolle in pentola, cosa abbiamo in programma, cosa c'è scritto nella nostra agenda, che impegni abbiamo? Abbiamo un impegno che riguarda una situazione che si è verificata in realtà qualche anno fa in Lombardia, però noi raccontiamo anche delle storie circoscritte dal punto di vista territoriale perché magari possono costituire un bel precedente da così copiare in altre zone d'Italia. Partono i rimborsi per i pendolari che sono stati loro malgrado vittime di una serie di disavventure con le Ferrovie Nord nel 2012, ci racconterà tra poco tutto Altro Consumo. E poi nella legge di bilancio 2018 forse arriveranno le famose novità per i giovani, per l'assunzione dei giovani under 32, ma a proposito di lavoro noi abbiamo un'altra questione di cui fare il punto della situazione. Sì, Mauro, perché oggi sono praticamente 3 mesi da che abbiamo cambiato il regime cosiddetto dei voucher, quindi dei lavori occasionali. Allora, dopo 3 mesi, come vanno? Quale fortuna hanno avuto? Quale diffusione hanno avuto? Lo spiegheremo e cercheremo anche di sciogliere i dubbi, perché forse nel periodo estivo non tutti si sono poi preoccupati di questi voucher, ma adesso con il rientro al lavoro, con la ripresa normale delle attività, allora la babysitter, allora l'aiuto. C'è la vendemmia, peraltro. Peraltro c'è la vendemmia, insomma, tutta una serie di attività per cui bisogna confrontarsi con questi due canali, quelli per le famiglie e quelli per le imprese. Per tutti questi argomenti, se avete preso appunti, prendetene un altro, è quello del nostro numero verde 800 24 00 24. Usavate i voucher vecchia maniera, quelli spazzati via dal nostro ordinamento in marzo come lavoratori o come datori di lavoro, vi è chiaro il funzionamento dei nuovi strumenti che li hanno sostituiti? Avete già iniziato ad utilizzarli, per esempio, come diceva prima Mauro, per collaborazioni saltuarie in casa, pulizie, ripetizioni, babysitter? Se non ci volete o non potete chiamarci, potete scriverci al 349-238-6666, riceviamo i vostri sms, su WhatsApp, oppure scriveteci anche ieri, peraltro, con le ristrutturazioni. Abbiamo ci avete intasato molte la mail. Molte ma mail, ci fa grazie, piacere. Grazie. Possono scriverci anche a quale indirizzo, sì, Mauro? Due di Denari, naturalmente ricordate che è a lettera, due di Denari, @radio24.it. Bene, partiamo. C'è sempre un treno che va e va, quasi sempre verso il nord o dintorni, il treno va. Ma capito Toto Cutugno, la canzone sul treno me l'ero persa. Ma guarda, io trovo che Marco Lombardo abbia uno spacciatore di brani musicali esatto, più che una uno ricerca bravo, di brani musicali. Allora, come dicevo prima Mauro, la nostra vicenda di partenza è un po' circoscritta dal punto di vista territoriale, perché parliamo delle disavventure dei pendolari che viaggiano con Trenord in Lombardia, ma è molto significativa come precedente e non solo. Allora, noi parliamo di almeno 3.000 pendolari che hanno vinto un'azione collettiva che era stata intrapresa nel 2012 a seguito dei disagi patiti per un cambio di software che la società aveva adottato, che però aveva comportato una lunga serie di disagi dovuti a ritardi, corse soppresse, vagoni sovraffollati, itinerari modificati e chi più ne ha più ne metta. E soprattutto però i viaggiatori in quel periodo di tutti questi disagi si lamentavano per il fatto che non riuscivano a reperire informazioni in alcun modo su che cosa stesse succedendo. Alla fine due associazioni dei consumatori hanno dato battaglia, sono riuscite ad ottenere che l'azienda ferroviaria lombarda venisse condannata dalla Corte d'Appello di Milano e quindi i pendolari tutti risarciti. Ma allora, la notizia di questa sentenza è di agosto e tu dirai, ma perché ne parlate a fine ottobre? Infatti, perché ne parliamo a fine ottobre? Perché ci sono gli aspetti molto interessanti esatto, di questa sentenza. Perché quando noi vinciamo qualche causa, poi ne potremo beneficiare andando a chiedere, a rivendicare appunto questi famosi risarcimenti ed indennizi, invece a quanto pare i pendolari non ne stanno approfittando. E quindi l'associazione, per esempio, Altro Consumo ha invitato qualche giornalista a diramare la notizia e ne abbiamo approfittato. Lo facciamo volentieri. Tra l'altro, noi, Deborah, è importante anche significare che questa è stata una cosiddetta class action, cioè causa collettiva. Allora, le cause collettive nel nostro ordinamento sono un po' monche, diciamo, sì. Beh, sono anche poi molto recenti come istituzione, sì, quindi non hanno la tradizione che siamo abituati a leggere negli Stati Uniti. Esatto, quelle famose che hanno a che fare soprattutto con le questioni ospedaliere e quant'altro. E quindi è interessante doppiamente cogliere il fatto che i pendolari, che sono molti e sappiamo hanno spesso anche molti disagi, hanno potuto costituirsi proprio in classe, in categoria omogenea e andare a chiedere e poi ottenere, questo è l'aspetto importante, un risarcimento. Assolutamente. Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, che finalmente torna a trovarci perché mancava dei nostri microfoni da troppo tempo, presidente. Buongiorno. Lo sapevo che l'avresti detto, Deborah, grazie. Grazie per l'invito, ma l'occasione merita. Vero? Allora, un risultato che avete portato a casa voi insieme all'altra associazione dei consumatori Codici, quindi lo ricordiamo per correttezza, e però insomma i pendolari mancano all'appello. Esattamente state provando a rintracciare tutte le persone che avrebbero diritto agli indennizi per queste disavventure di quel periodo. Ricordiamo che è una vicenda che risale al dicembre del 2012. Quanti ne mancano all'appello, presidente? No, diciamo che ancora dire che mancano all'appello è presto. Li stiamo invitando tutti a comunicarci i dati per ricevere i soldi, quindi stiamo parlando di una buona notizia, perché di solito si parla dei problemi dei pendolari, di quello che andrebbe fatto per tutelarli meglio. Per una volta, dopo lunga fatica e dopo tanta pazienza anche da parte dei 3.000 e passa pendolari che hanno aderito a questa iniziativa, arrivano i soldini, pochi per la verità, 100 euro a testa, però diciamo neanche pochissimi, un po' meno di quello che chiedavamo noi, ma è comunque un risultato molto importante, perché è la prima class action in Italia che arriva, non è la prima che viene fatta, ma è la prima che porta un risultato tangibile per un numero elevato di consumatori, quindi diciamo che è stata lunga, è stata dura, ma alla fine è un risultato concreto, siamo riusciti a portarlo a casa e direi che la class action dimostra che andrebbe migliorata, ma che anche così, monca com'è, qualche successo lo può portare a casa. È partita oggi, sta partendo in queste ore, una mail ai 3.000 pendolari. Naturalmente noi abbiamo gli indirizzi, i numeri, le mail di tutti quelli che hanno aderito, li stiamo invitando a risponderci comunicandoci il numero di conto corrente, piuttosto che se preferiscono avere un assegno per ricevere questi soldi. Trenord è disponibile a pagare, intanto questo è un altro fatto importante, è disponibile a pagare subito, ecco, senza attendere eventuali altri ricorsi o controricorsi, e adesso come dire, la palla passa anche alle persone che hanno aderito e che si devono fare avanti, quindi l'invito è guardatevi le caselle email, se riceverete sicuramente nelle prossime ore, entro domani, una mail di Altro Consumo, rispondete, non cestinatela, perché ci sono 100 euro da incassare, poi insomma, ognuno ne farà quello che vuole, magari qualcuno prenderà l'assegno, lo incornicerà e se lo attaccherà in camera per ricordo, qualcun altro giustamente lo spenderà, però è importante, come dire, concludere. E quindi è un assegno, Presidente, vicenda. Non è un bonus per rifare un altro abbonamento, perché qualche volta questi indennizi sono un po' strani. Assolutamente, sono soldi contanti, possono essere, ci sarà o un assegno circolare o un bonifico, comunicando i l'IBAN delle persone riceveranno il bonifico direttamente da Trenord nei prossimi giorni. Ecco, Presidente, quindi, la interrompo per chiederle questo, come ricordava lei la class action, questa è di fatto la prima class action di un certo rilievo che arriva a conclusione, siete passati per due gradi di giudizio, è così? Cioè un... Perché in primo grado il Tribunale aveva ritenuto che il cosiddetto bonus automatico che Trenord aveva già riconosciuto ai pendolari coinvolti in quella disastrosa settimana, 10 giorni di dicembre 2012, fosse sufficiente e che non ci fosse diritto a ottenere un ulteriore risarcimento per i disagi subiti, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione e ha accolto la nostra richiesta, che invece, data la gravità di quella situazione in cui, ricordiamo, erano stati annullati migliaia di treni, c'erano stati disagi, eravamo tra l'altro in pieno dicembre. Sì, in pratica la compagnia, la società aveva introdotto un nuovo software per la gestione dei turni di lavoro del personale, che era stato introdotto senza aver fatto in precedenza nessuna sperimentazione, e quindi questo aveva comportato. E quindi è andato in tilt e questo ha comportato che il personale non sapesse più a che treno doveva andare, su quale treno doveva. È come se io arrivassi qua dentro e non so che trasmissione in radio devo andare a condurre, avrebbe dell'incredibile, no? Però, esatto. Quindi insomma, Presidente, una pagina nera che, sì, ci ricorda la class action a beneficio di tutti noi e anche degli ascoltatori, perché adesso magari qualche pendolare potrebbe giustamente pensare, anch'io subisco quotidianamente un sacco di disagi e sappiamo quali, perché sui giornali e alla radio li documentiamo regolarmente purtroppo, e in realtà però la class action è una procedura un po' diversa, cioè non è che uno va per conto proprio dall'avvocato e fa causa alla società che non lo sta servendo adeguatamente. Funziona in modo un po' diverso. Ci riepiloghi in che modo funziona la nostra class action? Dunque, innanzitutto, perché si possa introdurre una class action bisogna essere consumatori, quindi bisogna essere utenti di un servizio o acquirenti di un prodotto di qualunque tipo. Il meccanismo è relativamente semplice sulla carta, può essere introdotta anche da un solo consumatore che chiede alla, che abbia subito ovviamente un illecito da parte di una banca, di una compagnia di assicurazione, di una compagnia ferroviaria, di una compagnia aerea, insomma di un fornitore o di un produttore, eccetera, chiede al giudice che dichiari che quell'azione può essere condotta come azione di classe. Azione di classe significa che se il giudice emette in prima battuta una decisione favorevole all'ammissibilità, a quell'azione potranno aderire tutti coloro che sono nella stessa situazione, che hanno subito lo stesso danno. Da quel momento in avanti tutte le persone che hanno aderito, e per farlo bisogna, e questa è la grossa differenza tra la class action italiana e la class action americana, per cui in quel caso il risultato spesso è molto più potente dal punto di vista economico, in Italia vale solo per chi ha aderito, quindi occorre darsi un da fare, perché bisogna compilare della documentazione, raccogliere delle prove, dei documenti, però nel caso di Trenord 3.000, anzi per essere precisi 6.000 consumatori l'avevano fatto e 3.000 hanno ottenuto poi questo risultato. I 3.000 che non l'hanno ottenuto, non l'hanno ottenuto per un motivo formale, perché purtroppo se l'adesione è arrivata troppo tardi rispetto a un termine di prescrizione annuale che c'è nel settore dei trasporti, che è un termine secondo noi troppo breve, troppo limitato, e quindi su questo probabilmente andremo avanti con la causa, ma i 3.000 che avevano, diciamo, si erano attivati rapidamente, hanno ottenuto questo risultato all'esito della, cioè la sentenza di un'azione di classe vale non solo per chi l'ha proposta, ma anche per tutti coloro che hanno aderito all'azione e hanno dimostrato di essere in questo caso utenti Trenord abbonati in quel periodo di dicembre 2012. Insomma, l'indennizzo è pochino, modesto, 100 euro, però il significato di tutto il risultato portato avanti è considerevole. L'indicazione che si è ottenuta dai giudici è importante, è un rilievo importante, e poi insomma la piazza milanese sappiamo che dal punto di vista appunto della giurisprudenza è una piazza importante, quindi senza nulla togliere naturalmente a tutte le altre sedi giudiziarie, però ottenere un'indicazione da Milano ha sempre un valore forte, come chiamola così. Grazie a Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, per essere stato con noi. A prestissimo. Grazie a voi, a presto. Arrivano i buoni, arrivano, finalmente hanno capito che qualcosa. Sono arrivati con calma. I buoni. Sì, esatto. Volevo ringraziare sempre Marco Lombardo, avevo questo vinile, dico solo questo, quindi lo dico a beneficio degli ascoltatori. Noi siamo ancora di quella generazione che ha diversi vinili a casa. Avevo questo vinile. Supero questo momento nostalgia, perché invece guardiamo alle novità. Esatto. È venuta in studio a trovarci Francesca Barbieri. Buongiorno Francesca. Buongiorno a tutti. Ciao Francesca. E al telefono abbiamo Alessandro Rotaporta. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, grazie dell'invito. Consulente del lavoro ed esperto per il Sole 24 Ore. Ecco qua che rompo il microfono, scusate. E perché? Perché abbiamo invitato Francesca e Alessandro? Perché parliamo, come vi avevamo detto, dei voucher. Oh, vi ricordiamo che potete scriverci. Io dico sempre voucher, ma per capirci, in realtà non si chiamano più così. Non si chiamano più così da marzo. Da luglio abbiamo tutto un nuovo meccanismo separato in due: da una parte le imprese e dalle piccole imprese, piccolissime imprese dobbiamo dire, e dall'altra invece abbiamo le famiglie. Francesca sul Sole lo chiama il doppio binario, vedi che ho letto i suoi pezzi. Brava, fai molto bene, leggi sempre i pezzi di Francesca. Religiosamente oppure? Religiosamente, quotidianamente, doviziosamente. Ottimo. Mi verrebbe da dire. Va bene. Allora, perché ne parliamo oggi? Perché sono circa tre mesi che questi nuovi meccanismi, nuovi voucher sono in vigore, e vi invitiamo innanzitutto a scriverci, naturalmente scriverci o telefonarci 800 24 0024 oppure 349 238 6666, diteci che problemi avete avuto. In realtà un po' di problemi ci sono stati, perché chiamo subito in causa Francesca. L'esordio di questi voucher, tu lo ricordavi ieri sul Sole 24 Ore, non è stato proprio di quelli entusiasmanti, insomma i numeri sono bassini. No, anzi è stato proprio un esordio in sordina, perché la piattaforma dell'INPS si è aperta il 10 di luglio e più o meno a tre mesi, diciamo, dall'apertura della possibilità di registrarsi. In tutto sono circa 49.000 le persone che si sono registrate, persone ma non solo, anche imprese, perché tutti con le nuove regole si devono prima registrare sul sito dell'INPS. Quindi nel dettaglio gli utilizzatori del libretto famiglia sono stati circa 8.000, gli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale 23.700, i prestatori, cioè i lavoratori, tra virgolette, sono stati quasi 17.000. Diamo un termine di paragone con i voucher vecchio stile, stesso, esatto, periodo più o meno. Hai fatto, sì, proprio, allora, modello trimestrale delle società quotate con un confronto sull'anno precedente, no Francesca? Sì, un'analisi di bilancio dei voucher vecchi e nuovi. Sì, allora se noi andiamo a vedere i vecchi voucher nello stesso periodo dell'anno scorso, ne sono stati venduti 36 milioni. Quindi il sistema era completamente diverso, diciamo, era molto più facile acquistarli, attivarli, eccetera. Però sicuramente non c'è paragone rispetto alla situazione attuale, perché io ho detto che sono circa 49.000 le registrazioni, però questo non significa che poi effettivamente la prestazione ha avuto luogo, perché dopo la registrazione ci sono una serie di passaggi per arrivare poi all'effettiva realizzazione della, diciamo, del lavoro con il voucher. Per non parlare poi anche, Mauro, del fatto che quando ti deve essere accreditato l'importo che è relativo alla retribuzione, anche quello arriva con qualche giorno di ritardo rispetto alle aspettative, e questo contribuisce a rendere ancora più incerta tutta la prassi. Ma chiamando in causa Alessandro Rotaporta, chiedo: sì, però sono cambiate anche le platee di riferimento, almeno per quanto riguarda la possibilità di utilizzo da parte di imprese, piccole imprese e soggetti con partita IVA, giusto Alessandro? Sì, è giusto, perché sono stati introdotti una serie di vincoli, quindi ci sono una serie di attività, poi magari le approfondiamo, che sono state vietate rispetto all'utilizzo dei voucher. Quindi mi riferisco ad esempio al settore, quindi all'ambito dell'edilizia e dei settori affini, a tutto il mondo che riguarda l'esecuzione di appalti di opere e servizi, quindi si taglia fuori una larga fetta di possibilità, e c'è una disciplina ad hoc per l'agricoltura. Detto questo, il ricorso ai voucher non è ammesso da parte di quei datori di lavoro che hanno le proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, quindi sostanzialmente per quello che riguarda imprese e professionisti l'utilizzo del lavoro occasionale è strettamente limitato a quelle realtà microimprenditoriali, se vogliamo definirle in questo modo. E infatti c'è già un'ascoltatrice che ci chiede: ma qual è il massimo delle ore annuali a persona che è possibile pagare con i voucher? Allora, c'è un tetto massimo che riguarda appunto il contratto di prestazione occasionale, quindi quello che è utilizzabile sostanzialmente dalle aziende, di 280 ore nell'anno. Quindi abbiamo i limiti economici che caratterizzano un po' le soglie massime di utilizzo delle prestazioni, e poi a questi limiti economici si affiancano anche questo limite di durata, che pare appunto 180 ore nell'arco dello stesso anno civile. Quindi bisogna fare riferimento sia alle soglie, che sono per ciascun prestatore, se vogliamo ricordarlo, 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori, e per ciascun utilizzatore, quindi c'è un limite sia in capo a chi utilizza sia in capo a chi presta attività, quindi per ciascun utilizzatore sono 5.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori. Se il rapporto è bidirezionale, cioè quindi l'utilizzatore si avvale dello stesso prestatore, quindi questo il rapporto tra i due non può superare sulle prestazioni occasionali l'importo di 2.500 euro. Quindi ci sono questi paletti da tenere in considerazione. Tu hai parlato di anno civile, quindi intendi il periodo 1 gennaio 31 dicembre. Esatto, sì. Quindi non si calcola, siccome questa cosa è partita da luglio, uno potrebbe pensare che dobbiamo fare un conto da luglio a luglio, invece noi dobbiamo avere come riferimento la scadenza del 31 dicembre, è corretto? Sì, in quest'anno, se vogliamo, è un limite, definiamolo così, maggiorato, nel senso che si può rientrare in quei parametri che dicevo prima su poco meno di 6 mesi rispetto magari poi a quando andrà a regime la normativa nel 2018, dove ci sarà molto meno spazio. Quindi, se vogliamo, si può un po' di più giocare su questo virtuale allargamento nel 2017, perché la normativa è entrata in vigore in corso d'anno. Perfetto, allora ci fermiamo per qualche istante, perché Debora, le borse sono pronte. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Io stavo a pulire il lampadario sopra il lampadario, allora mentre pulivo il lampadario si è rotta scaletta. No, scusi, il mio lampadario, quello di Murano? Sì, signor, quello di Milano. No, il lampadario di Murano, quello che mi è costato un occhio della testa. No. Allora, Arnett, non mi dire che l'hai rovinato, non me lo dire. Signor, se tu vuole che io non ti dile, non dile. Ecco, tipicamente con il nuovo libretto famiglia potremmo retribuire il collaboratore familiare, appunto, chiaramente a patto che lavori per noi un determinato tot di ore, che si sia registrato tutto correttamente sulla piattaforma INPS. Stiamo facendo il tagliando in pratica i nuovi voucher, Mauro, anche sì, noi il tagliando sì. Trimestrale. Hai fatto bene a ricordare questo limite che poi ci aveva anche segnalato Alessandro Rotaporta prima dell'interruzione per i mercati, perché... Attenzione, se l'utilizzo è di molte ore, come si può immaginare, non so, una babysitter per un bambino molto piccolo o una collaboratrice domestica per molte ore, allora non è il voucher, altro, non esatto. È il libretto famiglia il tipo di contratto adatto e corretto, perché bisogna passare ad altre formule contrattuali. C'è proprio un contratto di lavoro apposito. Detto questo, visto che abbiamo introdotto anche, a giudicare dallo sketch che abbiamo mandato in onda, la platea delle persone straniere che possono darci una mano a fare questi lavori, allora noi prendiamo subito al volo la domanda di Ugo da Firenze all'800240024. Benvenuto Ugo. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo porre questa domanda. Io sono un artigiano, a me spesso in ufficio si firmano questi ragazzi di colore a chiedere 50 centesimi, ma dove uno li può dare. A me era venuta in mente questa cosa, ma se io a questi signori qui potessi avere la possibilità di utilizzare il voucher, quindi dirgli, non so, ti do un voucher, due voucher, se bravi metti della vetrina, ma non potrebbe essere un'opportunità utile sì. Sia alla società e utile anche a loro, perché in questa maniera invece di rimanere a giro, cioè io giro la città dalla mattina alla sera e vedo tante di queste persone, da una parte mi fanno anche pena, poveracci, ma vengono in Italia, che si divertiranno un anno o due, quanto stanno prima che riescano ad arrivare dove vorrebbero arrivare e se ci arriveranno, potrebbe essere un modo per utilizzarli in maniera trasparente. Sì, grazie Ugo. Allora, il suo intento nobilissimo. In sostanza, qui il punto che io ripropongo ad Alessandro Rotaporta è questo. Persona non italiana, quindi non di nazionalità italiana, presumibilmente in Italia con, immaginiamo, permesso di soggiorno. Il signor Ugo vorrebbe utilizzarli per lavoretti saltuari e quindi fin qui ci siamo. Ma per attivare il voucher non mi sembra facilissimo, perché la procedura è abbastanza articolata, giusto Alessandro? Sì, sì, la procedura non distingue tra le categorie di lavoratori, quindi che si tratti di italiani o di extracomunitari, l'iter da seguire è sempre lo stesso. Quindi intanto, come ha detto giustamente lei, il lavoratore deve essere in possesso di permesso di soggiorno, viceversa l'impiego anche con i voucher non è possibile. Poi semmai il voucher può essere utile a questa persona, perché i compensi percepiti sono computabili per la determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso, quindi questo può essere un vantaggio nei confronti di queste persone. Tornando alla procedura, è sempre necessario che si registri sia l'utilizzatore sia il prestatore sulla piattaforma IMSS, quindi fatta la registrazione l'utilizzatore dovrà versare la provvista, quindi preventivamente stimare quelle che possono essere l'entità dei compensi che ha intenzione di erogare a questa persona, quindi andare a fare un versamento che sarà disponibile a sistema nel giro di una settimana, insomma una decina di giorni. Quindi quando ci sarà disponibilità, da lì in avanti si potrà iniziare a scalare le prestazioni da questo borsellino, andando, nel caso dell'impresa, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione a fare una denuncia giorno per giorno, quindi la denuncia vale per la singola giornata, dell'utilizzo vero e proprio del voucher. Quindi sì. Questo è un po' in sintesi tutto l'iter da seguire. Si è detto senza polemica, mi sembra difficile prefigurare un utilizzo come quello che diceva Ugo, il nostro ascoltatore. Li prendo, gli chiedo di fare un lavoretto, di aiutarmi a riordinare il laboratorio, pulire il pavimento, i vetri. e così poi loro prendono il voucher, anche perché, se capisco bene, devono poi anche questi lavoratori devono avere una posizione bancaria in qualche modo per ottenere questi soldi, non possono ricevere soldi contanti così in modo per le vie brevi. Non è buono da andare a come funzionava. Guardo prima Francesca per avere un conforto Poi soprattutto il pagamento non è immediato perché è il 15 del mese successivo, quindi c'è anche questo fatto da tenere in considerazione. Quindi cioè, se domani Ugo li chiama, fa fare, ammesso che loro si siano registrati, loro, cioè questi ragazzi non extracomunitari, qui immaginiamo con permesso di soggiorno, lui si è registrato, loro si sono registrati, eseguono la prestazione che gli viene richiesta, che so, riordinano il laboratorio del signor Ugo, e poi però aspetteranno il 15 di novembre per vedersi accreditata la somma. Esatto. Tra l'altro, Francesca, lo ricordavi tu ieri sempre in questo pezzo di bilancio sulle Sole 24 Ore, per aiutare le persone che veramente sono in difficoltà per attivare questa procedura, da qualche settimana possono avvalersi anche della consulenza di patronati ed intermediari che sono abilitati adesso al supporto degli utenti nelle varie operazioni, e fino a qualche settimana non era così. Sì, diciamo che da fine luglio c'è questo canale che è stato attivato, che era previsto però non è partito subito, per cui all'inizio i primissimi dati diffusi dall'INPS hanno evidenziato un flop nelle prime settimane, sono state pochissime le persone. Quando si è attivato anche questo canale, i numeri insomma, hanno cominciato a salire, anche se siamo veramente a livelli bassi. Allora, siamo al tuo momento. Siamo al mio momento, devo dire la parola magica che in qualche modo mi ha dato notorietà, e questo già dice tutto sulle mie ambizioni. E signore e signori, allora, traffico! Di denari. Ma che razza di lavoro fai? Ne facciamo tanti e ce n'è qualcuno che può essere remunerato con le nuove modalità previste dal nostro ordinamento, appunto entrate in vigore da qualche mese, sono i nuovi voucher che in realtà viaggiano, come dicevamo prima scherzando, sul doppio binario, perché ci sono i libretti famiglia chiaramente che consentono di retribuire per determinati lavori e poi ci sono i contratti invece di prestazione professionale, presto, com'è che si chiamano Mauro? Presto, sì, questo è il nome che hanno dato da circolare in questo caso, se ad attivarsi sono piccole, piccolissime imprese. C'è una signora che cura, pulisce cortile e giardino per poche ore settimanali, 2-3, è possibile pagarla con i voucher. Qual è il massimo delle ore annuali a singola persona che è possibile pagare con questi strumenti, chiede Ilaria da Milano. Mi sa che già il vademecum l'abbiamo fatto prima con Alessandro. Abbiamo ricordato con Alessandro questi limiti sia di ore complessive sia di reddito. Allora Alessandro, chiedo aiuto, ma mi ricordo che stavamo sui 5.000 euro. Giusto? Esatto, sì, 5.000 euro. E le ore totali per il prestatore in favore dello stesso utilizzatore, quindi mi sembra che sia il caso in questione, non si può superare l'importo di 2.500 euro, quindi bisogna stare in quel limite. Anticipo una curiosità che sicuramente c'è: i condomini possono farlo per lavori di piccolo giardinaggio, piccola manutenzione? E quale devono usare? Quello delle famiglie o quello delle imprese? Devono usare quello delle imprese, perché comunque non sono considerati persone fisiche, quindi devono ricorrere al prestito, quindi al contratto di prestazione occasionale. Graziella confeziona degli abiti in casa e dice: se io vendo qualche abito, 5-6 all'anno, come posso regolarmi con i voucher? Graziella, qua ci mette in difficoltà, lei fa la piccola commerciante, comunque l'artigiana, non saprei, quindi non riusciamo a capire chi vorrebbe pagare con i voucher, se lei fa riferimento a qualche persona che l'aiuta magari per questa attività d'impresa, ma a utilizzare i voucher per vendere l'abito non riusciamo a capire la dinamica. Se ce la indica meglio magari le rispondiamo. Qua invece abbiamo la stagione. Tu hai citato prima la vendemmia, qui io sono sulla raccolta delle olive invece, perché ci scrive Enrico, tra l'altro dalle tue parti. Sottolineerei, esatto, che scrive da Porto Recanati. Allora, Enrico da Porto Recanati, grande amico di Debora a questo punto. Non è così, però vabbè. No, però ti segnalo che comunque Enrico ha bisogno di raccogliere circa 300 kg di olive per autoconsumo e vuole ricorrere all'aiuto di due pensionati per una giornata. Allora, dice: consigliatemi sul da farsi. Cosa possiamo dire, Francesca, a Enrico e alle sue olive per autoconsumo? Beh, allora, per l'agricoltura ci sono delle regole ad hoc, cioè si possono impiegare i pensionati, appunto, gli studenti fino a 25 anni di età, i disoccupati, i cassi integrati, comunque persone che hanno dei redditi molto bassi, che percepiscono, diciamo, delle prestazioni di sostegno al reddito. Quindi sicuramente può impiegare il pensionato nell'attività in agricoltura. Possiamo chiedere a Rotaporta se ci spiega meglio com'è la procedura, nel senso di registrazione. Se è analoga più che altro a quella che abbiamo descritto, quindi registrazione del prestatore, registrazione del committente e così via. I pensionati in dispositivo speriamo ce l'abbiano già. Sì, o comunque che abbiano forse magari un nipote o un parente che possa aiutarli sulla parte elettronica. Vero Alessandro? Sì, l'iter è sostanzialmente lo stesso, quindi non ci sono delle particolarità dal punto di vista operativo. L'unico vantaggio, se così vogliamo definirlo, per quanto riguarda le imprese agricole è che la denuncia, quindi la comunicazione preventiva, quella che citavo prima, quindi quella da inviare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, può abbracciare, quindi non soltanto la singola giornata come avviene nella generalità dei casi per quanto riguarda l'utilizzo da parte delle imprese, ma può andare a tracciare una prestazione lavorativa che sia collocata entro un periodo massimo di 3 giorni, quindi l'impresa agricola ha questa manica un po' più larga per quanto riguarda questa comunicazione preventiva. Per il resto il funzionamento è lo stesso, cambiano un pochettino gli importi dei compensi. Esatto, le condizioni economiche, Alessandro, perché c'è un ascoltatore che ci stava segnalando il suo caso, che è piuttosto lungo ed articolato, dice: ma ora non lo posso più usare perché non ci sono le condizioni, mi costa troppo, dice. Quindi le condizioni economiche sono cambiate a vantaggio e a svantaggio di chi e come? Ma allora, le condizioni economiche sostanzialmente variano a seconda dell'inquadramento del lavoratore, quindi perché la norma fa riferimento per quanto riguarda l'agricoltura alle paghe dei contratti, quindi del contratto agricolo, e quindi bisogna andare più nello specifico. Magari se l'ascoltatore vuole un'informazione di dettaglio la possiamo fornire magari rispondendo a una mail, e qui diciamo che il costo in capo all'impresa agricola può variare dai 10,44 ai circa 9 euro all'ora, e il netto al prestatore varia dai 9,65, insomma, se non ricordo male, ai 6 erotti. Quindi sostanzialmente questo è il range degli importi. Non dimentichiamo, questo vale sia per le imprese agricole che per la generalità degli utilizzatori imprenditori, che non si possono retribuire prestazioni comunque inferiore a 4 ore, quindi anche se l'attività è svolta per un'ora, l'utilizzatore deve imputare un pagamento di, quindi scatta un pagamento di 4 ore, quindi non è possibile validare prestazioni inferiori alle 4 ore, quindi questo è da tenere in considerazione. Alessandro, ci ha chiamato Giancarlo, ora non l'abbiamo in collegamento materialmente. Lui è parte di un'associazione di promozione sociale e d'estate utilizzano giovani per gestire i centri estivi. Prima usavano i voucher e ci chiede: ma posso continuare a usare i voucher? Quindi la domanda riguarda anche il soggetto coinvolto, cioè l'associazione di promozione sociale, non solo proprio il meccanismo dei voucher. Il soggetto rientra nel novero, in questo caso, delle imprese comunque, quindi non è una persona fisica, sarà una onlus o un'associazione, come mi pare di capire, per cui l'utilizzo è possibile con tutte le caratteristiche e i requisiti che abbiamo descritto finora. Infatti. Allora, c'è tra l'altro anche Angela, un altro aspetto interessante, non so se riusciamo a mandarla in onda perché tra 2 minuti chiudiamo, ma il tema è che vorrebbe pagare la signora delle pulizie tramite libretto famiglia. È vero che è obbligatorio, per fare l'accredito dell'importo che viene riconosciuto, avere comunque anche il conto corrente, perché dove viene accreditato l'importo con il bonifico? Oppure c'è questa storia, Francesca, del com'è che si chiama, il borsellino elettronico che deve essere reso disponibile, che esenta un po' da questa... Allora, la famiglia deve creare questo portafoglio, quindi deve fare questa procedura in cui, come dire, accumula la provvista che poi materialmente verrà utilizzata per pagare il prestatore, quindi in questo caso la collaboratrice domestica. Ma a sua volta, evidentemente, questo importo alla signora Malsan... La signora si deve anche lei registrare, deve avere il suo... borsellino elettronico? Cioè no, deve avere il suo PIN per poi procedere alla registrazione. E comunque dai dati che l'INPS ci ha fornito, loro hanno, come dire, monitorato per il mese di settembre circa 11.000 prestatori, quindi 11.000 lavoratori, e hanno fatto una distinzione tra prestatori con IBAN e prestatori senza IBAN. Quindi è possibile che, e quindi questo denaro come farà? Alessandro, come farà la signora eventualmente a recuperare questo piccolo stipendio mensile che riesce a percepire? Allora, in quel caso lì, nel momento in cui il prestatore non è dotato di un IBAN, potrà scegliere come modalità il bonifico bancario domiciliato, ecco. Quindi gli arriverà un titolo che poi va a incassare alle poste. Chiarissimo, però vabbè, insomma, non pensavamo che fosse possibile, invece evidentemente lo è. Caro Mauro, abbiamo terminato, il primo tagliando trimestrale l'abbiamo fatto, adesso ci rivediamo fra 3 mesi, facciamo il semestre. E vediamo come andrà il semestre, poi si aprirà il 2018 con quindi i nuovi voucher. Se vuoi andare a fare il Babbo Natale presto in qualche centro commerciale, come vedremo... mi vedi come Babbo Natale? Ma simpatico, figurati, con le canzoni dei Chapter 11 sarai fantastico. Ma oramai c'ho più l'età del nonno Natale, mi sa. Va bene, a domani. Grazie a tutti, a domani.